4 mattino. Sono le 8, 19 minuti e 28 secondi, è venerdì 6 novembre, care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia per la terza parte di 24 mattino. Alle 8.35 parleremo col professor Lavecchia della Statale di Milano, un epidemiologo, per farci spiegare un po' sulla base di quali criteri e come questi criteri sono organizzati e ponderati è successo quello che si stanno chiedendo tutti. Perché la Campania è in zona gialla, è gialla, e la Lombardia è in zona rossa? È una domanda che continua a circolare e che fa parte anche della discussione politica. Discussione politica che è stata infuocata ieri anche dal leader della Lega, Matteo Salvini, che sarà nostro ospite alle 8.45. È il momento però adesso del nostro appuntamento quotidiano con Paolo Mieli. Ciao Paolo, buongiorno. E buon venerdì. Eccoci qua. Le prese con gli Stati Uniti, che sì. È l'ora dei ricorsi, dei riconteggi, tutto viene riconteggiato. Sì. Senti, a proposito di conteggi, ieri ha fatto il giro della rete, si è visto dappertutto questo video di Paula Smith. Chi è? È una predicatrice, è a capo del consiglio evangelico del presidente americano Donald Trump, e in questo video prega perché i conteggi vadano a favore di Donald Trump. Sentiamo, va. Ce l'abbiamo, vai. Or bata rata and ek manda rasata. For I hear the sound of victory. I hear the sound of victory. I hear the sound of victory. I hear the sound of victory. I hear the sound of victory. Com'è Paolo? Com'è? I hear the sound of victory. Secondo me non può che avere successo, però per quello che riguarda i ricorsi, invece tutte le cose stanno andando contro Trump. Sono stati respinti in Pennsylvania, in Georgia, in Michigan. E l'unico risultato, diciamoci la verità, che Trump ha raggiunto è che siamo a venerdì mattina e il conteggio non è ancora finito, per cui le elezioni sono state martedì, e per cui non come prevedevamo, guardate, fino a venerdì non avremo dei risultati certi, ma qua si rischia di andare ben ancora dentro più il lunghi. Weekend e forse all'inizio della prossima settimana. Però intanto un'altra notizia consolante: la borsa americana vola, nel senso che pensa che tutto si risolverà, aumenti sopra il 2%, e pensano, sono stati intervistati molti investitori, molti sono unanimi a dire che Biden non si discosterà dalle politiche di Trump e che tutto sommato tranquillizzerà, per quella che è la parte delle relazioni internazionali, la politica americana, e che i disordini sono cose fisiologiche, ci furono pure l'altra volta quando vinse Trump, ma sono cose contenute. Mentre i toni dei commentatori, soprattutto in Italia, sono molto allarmistici, parlano di seconda guerra civile, lì no. E la domanda che già si fanno tutti i commentatori invece statunitensi è: che faranno i repubblicani adesso? Cosa faranno? Sia in caso di vittoria o... C'è Steve Bannon che, come sai, di notte ha dato dei consigli. Si è lasciato un po' andare. Peter, lo sentiamo questo passaggio? And that's the second term. Second term kicks off with firing Ray, firing Fauci. Now, I actually want to go a step farther, but I realize the president is a kind-hearted man and a good man. Allora, dice questo, dice il secondo mandato di Donald Trump dovrebbe iniziare con il licenziamento di Fauci, il virologo che tutti ormai conosciamo, e Ray, che è il capo dell'FBI. Sì. Dice però io andrei un passettino più avanti, farei come ai tempi dei Tudor e metterei le loro teste su una cancellata, a monito, ad avviso per tutti i burocrati federali, diciamo non proprio morbido. Beh, invece i commentatori sono meno drastici, pensano che Trump non tornerà alla Casa Bianca, anche se usano tutti, ho notato la differenza fra ieri e oggi, che usano tutti delle cautele, dice ma quanto sembra, cioè sono meno sicuri del fatto che questa strategia legale di Trump non riesca ad avere vittoria, ma insomma diciamo, vincerà Biden, si insedierà Biden e notano che, a parte, ti ricordi, ieri abbiamo registrato alcuni dissensi nello Stato Maggiore Repubblicano, però il grosso del partito è dalla parte di Trump e si ritiene che lui comincerà una grande corsa, la famosa traversata del deserto, per ricandidarsi nel 2024. Tutti sono spaventatissimi da questa eventualità, perché Trump ha mostrato una forza incredibile, inaspettata, una forza di consenso, non una forza fisica, e la situazione è molto simile a quella che si ebbe in Italia nel 1995-96, quando, detronizzato Berlusconi, alcuni gli facevano il funerale. I due personaggi, almeno in questo si assomigliano, cioè dare Trump per morto è come a metà degli anni 90 dare Berlusconi per morto. Non ci scommetterei su questo. Troppe volte il funerale di Berlusconi è stato celebrato e quello è sopravvissuto, Berlusconi, anche a condanne definitive, arresti domiciliari, pene fatte in un ospizio, insomma. Sì, starei attento. Sì, decisamente. Cioè, a proposito, però, poi, sì. Dimmi tu. A proposito di riconteggi, c'è tutta la questione dei numeri delle regioni, la questione Covid, ovviamente, della quale si discute in Italia. Infatti il fatto, come avrei visto il titolo, è Salvini come Trump, vuole il riconteggio, e Travaglio, l'editoriale, lo comincia così: dopo le mosse eversive delle giunte di Lombardia, Piemonte e Calabria, aizzate dal mestatore Salvini, si spera che nessuno rompa mai più le palle con le prediche al governo sul dialogo con le opposizioni. Sì. Insomma, abbastanza duretto. Che cosa c'è? Che le regioni, anche questo lo stiamo dicendo da giorni, dicono: ma voi calcolate le zone rosse o le zone arancioni e gialle sulla base dei dati vecchi, dei dati del 25 ottobre, e non si capisce perché la Lombardia, anche con delle ampie zone che stanno meglio di quanto stia la Campania, debba essere in zona rossa e la Campania no. La Campania viene privilegiata per motivi politici. E anche lì, adesso ne parlerai, la risposta di Brusaferro è stato che in Campania l'indice RT è sotto 1,5, le terapie intensive sono sufficienti ed è per questo che la Campania... Ma lì c'è il fatto che De Luca chiede che la regione, chiede da tempo, è stato il primo a chiedere che la regione venisse messa in zona rossa, ma vuole che lo faccia il governo. A proposito di De Luca, chi è appassionato del personaggio, sul Domani c'è un bell'articolo di uno scrittore, Fabio Vassallo, che dice che De Luca è come la carogna del teatro di Edoardo De Filippo, uno che dice la verità ma la dice in modo sgradevole, quello che ti dice: ma lo vuoi capire, che dice il padre, che dice il figlio, che la tua fidanzata sta con un altro, incinta di un altro, ma mettiti la testa a posto, dice, ecco perché ha grande successo. Riguardato, rileggete il teatro di Edoardo e capirete tutto. Poi, di De Luca, di Vincenzo De Luca. Se vuoi sapere della politica ancora fra gli Stati Uniti, Enrico Letta su Repubblica dice che è felice perché dice che il sovranismo si sgonfierà anche in Europa, di conseguenza alla caduta di Trump. Giovanni Orsina sul Foglio dice: però guardate, state attenti a questi giudizi affrettati, perché Salvini e Meloni, la Meloni anche più di Salvini, si sono già da tempo riposizionati, non possono essere considerati, sì, tifavano per Trump, ma si sono riposizionati. Sì. Conseguenze del Covid, Trenitalia di mezzo alle frecce. Ieri abbiamo detto annullati quasi tutti i viaggi di Italo, adesso sono dimezzate le frecce rosse. Poi su Repubblica dice che la condizione dei malati sono peggio che nel mese di marzo, c'è paura al Trivulzio, all'ospizio per vecchi La Baggina di Milano, a Rivoli ci sono foto su tutti i giornali degli anziani per terra, c'è un medico, Adele Di Costanza, un medico, forse l'avrai già detto, di 27 anni, che ha detto ai ragazzi: state a casa, ed è stata insultata sul web, è dovuta praticamente rifugiarsi non so dove fuori dalla rete perché insulta, sì, insultata per questo. Paolo, prego. No, due cose te le devo dire assolutamente. Sul manifesto, Manlio Vadia protesta per il modo in cui sono stati tenuti i funerali di Proietti. Lui era amicissimo di Proietti, c'è grande pompa, ma nel momento in cui del teatro non si occupa più nessuno, Tony, c'era qualcosa di stonato nella grande pompa, persino di osceno. E anche Conte, quando parla dei fondi allo spettacolo, ha un irritante tono paternalistico. Il Messaggero se la prende con 1,5 miliardi allo sci, c'è un titolo grande in prima pagina. L'abbiamo raccontato. Ma quelli sono per le Olimpiadi di Cortina, vabbè, insomma, non voglio dire. Il cardiologo Bernardo Cortese dice che stiamo condannando i cardiopatici e c'è grande questione sulla movida in Campania. Ieri sera sono stati trasmessi, messi in onda a Piazza Pulita dei filmati sulla movida sul lungomare Caracciolo, davvero molto allarmanti. Impressionanti, sì. da lanciafiamme, per dirla con De Luca. Paolo, che cos'altro hai visto? Anzi, guarda, ti faccio una domanda io, così chiudiamo con questo, ti direi. Abbiamo dato prima, già gli ascoltatori si sono scatenati su questo, la notizia che il prossimo 007 sarà una donna nera. E qua grande dibattito che si apre, perché qualcuno dice una concessione eccessiva al politicamente corretto e via dicendo. Tu come la vedi? Secondo me non è più 007, è un personaggio 007 creato su quel modello che ha avuto poi delle infinite varianti. Anch'io trovo che sia un omaggio al politicamente corretto, ci si porta sempre più avanti. Una donna nera, una 31enne giamaicana, di origini giamaicane, la Shana Lynch, molto bella. Ma se uno vuol fare un film con un agente donna, e fa un film con un agente donna, ma non si vede perché inserirlo nella cosa di 007, come fare riscrivere I Promessi Sposi e Don Abbondio è una giovane suora battagliera che combatte per i diritti LGBT, insomma, sarebbe una cosa, non è più I Promessi Sposi. Ecco, un'idea per sceneggiatori da Paolo Mieli è arrivata. Attenzione che arriva, la riscrittura dei Promessi Sposi. A proposito, scusa, prima che ti lascio, a Cogne viene venduta la villetta, è stata messa all'asta, di Anna Maria Franzoni, la famosa villetta dei plastici di Bruno Vespa, 800.000 euro. Ma sai che servono almeno per un terzo a pagare la parcella dell'avvocato Taurino. Perché non si trovano i soldi per pagare la parcella. Ho trovato questa notizia curiosa, ecco, molto curiosa. Grazie Paolo, a lunedì. Ciao. A lunedì. Per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, 800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta. Campania e Lombardia, è su quest'asse che si continua a discutere in queste ore: la Campania gialla, la Lombardia rossa. Siamo in linea con Carlo Lavecchia, che è ordinario di epidemiologia all'Università degli Studi di Milano. Professor Lavecchia, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a tutti. Buongiorno. È giustificata questa scelta? La scelta delle misure di contenimento? Sì, di questa differenza. Guardi, le chiedo proprio brutalmente, perché la grande discussione è, tutti si stanno chiedendo, in Lombardia tutti si stanno chiedendo perché la Lombardia è rossa e la Campania è gialla, dopo che ci hanno raccontato di una condizione terribile anche dal punto di vista dei servizi sanitari nella regione guidata da Vincenzo De Luca. È giustificato secondo lei oppure no? Allora, questo è sostanzialmente automatico e deriva dai 21 criteri definiti dal Studio Superiore di Sanità, che presi singolarmente sono senza dubbio ragionevoli. Essendo un algoritmo complicato, questo si presta a certi livelli di arbitrarietà, secondo me sarebbe meglio avere una ripartizione basata su criteri più semplici, ad esempio i ricoverati, la disponibilità di letti in terapia intensiva, che è uno degli elementi essenziali. Ciò detto, la scelta delle chiusure territoriali anziché delle restrizioni nazionali, più eventualmente chiusure aggiuntive in piccole aree, è una scelta solo italiana. Tutti i grandi paesi europei, Francia, Spagna, Regno Unito e Germania, hanno in atto delle misure non di lockdown, ma di restrizioni dei contatti delle persone. La principale quindi adotta... Secondo lei, mi scusi professore, mi sembra di capire da quello che ci dice che lei sarebbe favorevole a un provvedimento nazionale e non ad un provvedimento territoriale, o ho capito male io? È molto difficile scegliere in questa situazione. Il provvedimento territoriale ha una sua logica, però quando il territorio è definito in base alla regione, ossia la Valle d'Aosta ha 100 volte meno abitanti della Lombardia, diventa difficilmente comparabile. Quello che stavo dicendo è che nel Regno Unito alcune province sono state chiuse per un eccesso di casi in quelle province, ma era un focus specifico sulla provincia. Il comparare per la scelta le piccole regioni alle grandi regioni può essere discutibile. Mi sembra di capire anche da quel che ci diceva prima che questo algoritmo che si basa su 21 indicatori, dei quali, se ho capito bene, professore, non conosciamo l'esatta ponderazione, cioè quanto ogni singolo elemento incida sulla scelta, non la convince molto. No, allora noi non conosciamo la ponderazione, ma soprattutto non conosciamo i dati che ci stanno dietro, anche se il presidente Conte, almeno fino a ieri non li conoscevamo, perché il presidente Conte nella conferenza stampa aveva detto che li avrebbe resi pubblici, quindi può darsi che ieri siano stati resi pubblici. Ciò non di meno resta un algoritmo complesso e ragionevole in buona parte dei suoi elementi, ma resta comunque un algoritmo complesso che quindi si presta a interpretazioni o a inserimento di dati che possono essere discutibili. Di fatto è diviso in varie parti. Il primo sono gli indicatori di processo sulle capacità di monitoraggio, il secondo sono gli indicatori sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione, sì. E il terzo è sono gli indicatori della tenuta dei servizi sanitari. Sì, quindi noi i dati sottostanti non li conosciamo in gran parte, mi sembra di aver capito, professore. Io finora non li conosco, però il presidente Conte nella conferenza stampa ha detto che li avrebbe. Immagino che voi, che vi occupate di queste cose, non stiate attendendo altro, perché potete lavorarci intorno e capire un attimo esattamente come funziona e se è funzionale, se è effettivamente funzionale oppure no. Non ci vorrebbe un po' più di trasparenza su questo fronte? Non ci sarebbe voluto un po' più di trasparenza fin dall'inizio, anche per rendere più accettabili le decisioni ai cittadini, no? Ma io credo che il flusso dei dati in Italia finora sia stato accettabile, cioè sia l'Istat che il Ministero della Salute, la protezione civile, che tutto sulle sanità hanno comunicato i dati in maniera relativamente tempestiva, perché è veramente difficile comunicare anche i ricoveri, i decessi e le terapie intensive ogni giorno. Noi sappiamo che poi si riferiscono a qualche giorno precedente, però diciamo la comunicazione dei dati aggregati in Italia non è stata peggiore rispetto agli altri maggiori paesi europei, probabilmente è stata anche leggermente migliore. L'accesso ai dati singoli è complesso e quindi su questo vi sono molte richieste, ma effettivamente è una questione aperta a discussione. Sì, ed è un problema in generale di cultura dei dati della pubblica amministrazione italiana, diciamocelo, professore, che prescinde dal fatto della pandemia, adesso diventa particolarmente importante, particolarmente rilevante, lo guardiamo in questo modo, però in generale non è che ci sia una cultura dei dati nella pubblica amministrazione alla quale fa riferimento. Professore, dal punto di vista di quello che stiamo vedendo in questi giorni, a livello di dati aggregati nazionali, più di un osservatore ha detto la crescita esponenziale sembra finita, c'è una sorta di stabilizzazione. Vede questo fenomeno anche lei? Allora, i livelli dell'epidemia in Italia sono molto alti. Questo 15, 14, 20% di positività sui tamponi e un intorno del 10% sui tamponi fatti per screening lascia supporre che dal 3 al 5% degli italiani oggi siano positivi al tampone, quindi stiamo parlando di 1, 2, 3 milioni di soggetti che sono positivi al tampone che non hanno sintomi o hanno pochi sintomi e quindi sono in giro. La crescita non può continuare all'infinito, insomma, questo è un virus respiratorio, un coronavirus, ce ne sono altri quattro che sono con noi da sempre, sappiamo che in assenza di un controllo hanno una campana di circa 70-90 giorni, cioè salgono per 35-40 giorni e poi scendono. Questo ovviamente non si può non controllare perché è troppo grave, quindi quando i servizi sanitari sono sovraffatti bisogna porre dei limiti al contatto. Sì. E al contagio. In ogni caso neppure questo può crescere all'infinito. Ciò nonostante i livelli di diffusione del Covid oggi in Italia sono molto alti. Professore, sulla base di questa campana, quindi un'ipotesi teorica, per carità, lo sappiamo, quando possiamo prevedere la fine della salita, secondo lei? È difficile dirlo perché la campana viene controllata e deve essere controllata perché sennò i servizi sanitari non riescono a reggere. Senza dubbio non può essere all'infinito e con questa frequenza di positività vi sarà nell'arco delle prossime settimane o mesi un livellamento che peraltro è influenzato anche dalle misure di contenimento, cioè la logica di queste misure di contenimento sono è esattamente questo, quindi contano anche le misure di contenimento e non il fatto, cioè la campana conta molto di più quando il virus è lasciato per così dire libero, mi pare di aver capito. La ringrazio, grazie al professor Carlo Lavecchia per essere stato con noi dell'Università Statale di Milano, epidemiologo naturalmente. Una brevissima pausa e poi con Matteo Salvini. Mattino. Buongiorno al senatore Matteo Salvini, leader della Lega. Salvini, eccoci. Buongiorno a voi. Bentornato. Cosa avrebbe fatto lei? Cosa avrebbe fatto? Non ci sono bacchette magiche, però sicuramente più ascolto, più coinvolgimento non solo di chi amministra, sindaci, governatori, ma anche delle categorie professionali. Degli imprenditori, degli artigiani, dei lavoratori autonomi, dei professionisti, perché quello che è difficilmente comprensibile sono queste scelte improvvise, con un anticipo di 24 ore, fondate su dati vecchi, che dividono il paese, stando a molti medici, non intervengono in profondità per risolvere il problema. Sicuramente le cure a domicilio, i tamponi a domicilio che vengono usati in buona parte del resto del mondo e ancora troppo poco in Italia, sono qualcosa su cui si deve accelerare, perché gli ospedali soffrono di affollamento, spesso e volentieri persone che potrebbero essere curate a casa, quindi investire sulle cure a domicilio, sì, sulla medicina a domicilio e sui tamponi a domicilio è fondamentale. Alcuni elementi di medicina del territorio sono mancati, Salvini, anche in regioni amministrate dalla Lega, penso alla Lombardia, tanto per fare un esempio. Ma qua non si tratta della Lega o non della Lega, qua si tratta di mettere i medici nelle condizioni di combattere, non a mani nude. Se il governo non approva un protocollo che mette nelle mani dei medici armi, tutele e certezze, qua puoi parlare della Lombardia, della Puglia, della Campania o del Veneto, la situazione non cambia. Non capisco perché non sia ancora stato fatto. Pensa che ci sia stata una scelta politica nell'assegnare zone rosse, zone arancioni e zone gialle? No, spero proprio di no. Spero proprio di no, perché c'è di mezzo la vita, la salute e il lavoro delle persone. e quindi spero di no. Non è normale però che si sia aspettato anche in questo caso l'apparizione televisiva del mercoledì sera del presidente Conte con milioni di lavoratori, di imprenditori, di commercianti e di artigiani che hanno scoperto il mercoledì sera alle 8:30 se questa mattina avevano o no un lavoro, avevano o no un ufficio, avevano o no la possibilità di incontrare fornitori e collaboratori. Quindi dice lei troppo poco anticipo rispetto a questa chiusura, chiusura del venerdì. Uno può avere simpatia o meno, però in Francia, in Germania, in Inghilterra, Merkel, Macron, Boris Johnson avvisano, spiegano, coinvolgono e pianificano. Se... qua sembra che di settimana in settimana si vada avanti, si torna indietro, si apra, si chiuda le palestre, le piscine, i bar, tu sì, tu no, in Calabria sì, in Puglia no. Non mi sembra che ci sia una visione, un'organizzazione. Se il governo portasse in Parlamento un provvedimento di lockdown nazionale come ha fatto per esempio la Gran Bretagna, voi fareste come l'opposizione britannica, lo votereste come hanno fatto i laburisti? Ma io voto le cose che mi vengono spiegate. Quindi noi da mesi stiamo facendo domande e proposte. Domande e proposte. E da mesi il governo tira dritto per la sua strada, libero di farlo, lecito, è il governo. Però non puoi fregartene del resto del mondo e poi chiedere collaborazione facendo un colpo di telefono. Quindi tamponi a domicilio, cure a domicilio, sui ristori. Io ho seguito ieri un programma di Radio 24. La chiusura nella sola Lombardia coinvolge circa 500.000 aziende, 2.600.000 addetti e costa solo per questo mese più di 4 miliardi. Il decreto ristori per tutta Italia ne ha 5. Ora, se vieni in Parlamento e mi spieghi se quei 5 miliardi servono a tutta Italia e mi vuoi convincere, non mi convinci. Se mi chiedi dove trovare altri soldi per dare una mano, allora la collaborazione c'è. Per esempio? Ma per esempio mettendo buoni del tesoro che i cittadini italiani, gli investitori, i risparmiatori e le banche stanno chiedendo in quantità quadrupla rispetto a quello che il governo decide di emettere. Quindi nuova emissione obbligazionaria, di fatto nuovo debito in sostanza. Beh, che cosa sta facendo il governo? Sta facendo debito. Quelli europei sono soldi a debito. Quindi se devo indebitarmi, preferisco indebitarmi con gli italiani e non con qualcun altro. Sì, è certo che poi i rischi connessi all'emissione di BTP quando la BCE dovesse smettere di comprare sono più forti. Ne abbiamo già parlato in questa sede, mi pare, Salvini, di questo tema, se non vado errato. Comunque, lei cambierebbe la composizione del CTS, mi sembra di aver capito? No, ci sono semplicemente tanti medici, tanti primari, tanti medici ospedalieri di base, il professor Palù, il professor Bassetti, il professor Vedoma, il professor Zangrillo, al professor Garavelli, che dicono curare è meglio che chiudere. E io sono convinto del fatto che la vita venga prima di tutto, la salute venga prima di tutto. Però bisogna fare cose che risolvono. Il coprifuoco alle 22, in pieno novembre, a chi serve? A cosa serve? Chiudere palestre piuttosto che teatri dove non si è infettato nessuno, serve, salva, oppure è meglio intervenire sul trasporto pubblico? La comunità scientifica ne sta discutendo e quindi sarebbe giusto che ne discutesse anche il Parlamento. Sì. Lei nei giorni scorsi ha parlato, Salvini, dell'utilizzo di altri medicinali, proprio nelle scorse ore, se non vado errato. È tornato sull'idrossiclorochina? In Germania, in Cina. È tornato sull'idrossiclorochina? Certo, che viene usata nei protocolli tedeschi, nei protocolli cinesi e viene usata da centinaia di medici anche in Italia. Però... e non si capisce perché una sperimentazione di questo genere non possa essere appunto decisa a livello nazionale piuttosto che affidata al singolo medico. Ma in realtà ne sono state fatte di sperimentazioni e come sa hanno dato, hanno detto sostanzialmente che non è utile, in alcuni casi può addirittura essere dannosa per questioni di cuore. Assolutamente no. Se usata all'inizio salva e guarisce e ci sono alcune centinaia di medici che oggi venerdì mattina la stanno usando. Sì. I farmaci non hanno un colore però, politico. Però lei sa, Salvini, che le sperimentazioni scientifiche non si fanno coi medici, no? Cioè non è il medico, non è il medico che dà e valuta poi come vanno le cose, perché il fatto che la stanno usando e sta funzionando. E se io mi ammalassi la chiederei. Lei la chiederebbe, chiederebbe l'idrossiclorochina se si ammalasse appunto di Covid-19, cosa che non è successa, per fortuna, mi sembra, no? Beh, tra le tante persone che hanno un farmaco usato in Germania, in Cina, in tanti altri paesi, non si capisce. Beh, perché alcuni paesi però l'hanno proprio bloccato, penso alla Francia, tanto per fare un esempio. Insomma, ripeto, ci sono sperimentazioni, perché poi le sperimentazioni non è che le fai solamente le fai dando un placebo a un altro gruppo di persone nelle stesse condizioni, allo stadio iniziale della malattia guarisce. È chiaro che se usata allo stadio finale non serve, se usata a casa il problema è prevenire l'affollamento degli ospedali e permettere ai medici di andare a casa. Il 96% di chi si infetta non ha sintomi o li ha lievissimi. Se su questi soggetti intervieni subito a casa con tutti i mezzi necessari, eviti a loro ospedale e problemi. E questo è il problema: intercettare gli italiani ammalati, anzi contagiati e non ammalati, prima che debbano andare in ospedale. Senta Salvini, a chiudere, le dispiace per Trump? Sta perdendo, non si sa ancora, in realtà stanno contando, non si sa mai nella vita che succede, ma le dispiace, com'è? Innanzitutto gli americani hanno dato una grande lezione di partecipazione, democrazia e di sfida alla paura e al contagio, quindi vedere quelle file è stata una bella immagine, a prescindere da chi vincerà. Soprattutto alle poste, nella fattispecie, però prego. Diciamo che il fatto che in alcune contee ci siano più voti che elettori, più schede che cittadini, qualche dubbio giustamente lo fa venire, quindi che stiano fermando e ricontando mi sembra necessario, perché come sia a Milano ci fossero 2 milioni di voti quando siamo in 1.200.000. Quindi vederci chiaro fino in fondo mi sembra necessario. E poi chi vince vince, l'America rimane comunque una grande democrazia. Va bene, va bene. Matteo Salvini, leader della Lega, buona giornata, grazie. GR24, ci risentiamo lunedì mattina. Buon fine settimana a tutti, da Simone Spezia, ciao.